Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e grazie per essere in nostra compagnia. In regia Peter Bescapé, in redazione Laura Vanossi. Andiamo ai titoli del nostro sommario. Per vincere bisogna per forza arrivare primi? Fermenti lattici e antibiotici. L'unione potenzia l'efficacia. Fegato grasso. Scoperto un indizio. Vincere, questa è la sfida di oggi. È una sfida complessa perché gli ingredienti di una vittoria sono tanti, diversi. Alcuni dipendono da doti personali, innate direi, come il talento. Altri invece sono il risultato di allenamento, fatica, determinazione, studio, impegno. Su tutte queste variabili regnano la motivazione e la capacità di saper far fronte ad ostacoli e anche a difficoltà. Insomma, la strada per il successo, per la vittoria, non è certamente in discesa, ma ognuno di noi la può percorrere a condizione di essere pronto a rialzarsi ogni volta che mette un piede in fallo. Oggi avremo tanti ospiti, ognuno con una vittoria da raccontare e pronto a condividere con noi la ricetta che ha permesso di realizzarla. Ma sono certa che ognuno di noi abbia una vittoria da raccontare, vittorie piccole o grandi, personali, di squadra, conosciute da tutti oppure rimaste un po' nascoste, ma non per questo credo meno importanti e soddisfacenti. In quale occasione o situazione allora voi vi siete dette ne esco vincitore a testa alta? E grazie a quale qualità e a quale fatica? Intanto che ci pensate, il nostro numero verde è già a vostra disposizione, è sempre 824 0024. Vi voglio presentare l'ospite di oggi. È tornato a trovarci il professor Giampaolo Perna, direttore associato del Master Internazionale sulle Neuroscienze Emotive dell'Università di Maastricht. Buongiorno professore, bentornato. Ciao Nicoletta e Laura e a tutti gli ascoltatori. Allora professore, direi si metta subito in gioco anche a lei. In quale situazione o in quale dimensione della sua vita si è sentito campione? Vedere tutte le volte in cui ho avuto il coraggio di fare scelte difficili, lasciando magari cose certe per situazioni incerte, tutte le volte che ho accettato quelle che sono le sfide della vita. E devo dire, l'ultima è stata poche settimane fa con una rivoluzione della mia vita professionale. È costata molto, professore? Beh, è costata molto perché uno lascia le cose certe, si butta in un progetto nuovo, in un sogno, ed è il coraggio di farlo che è importante, perché di solito i sogni ce li abbiamo tutti. Il coraggio di mettersi in gioco, di rischiare molto o tutto per realizzarli è molto difficile. Beh, quella è già una vittoria. Infatti, indipendentemente dal risultato, già riuscire a seguire un sogno è una vittoria, avere il coraggio di farlo. Professor Perna, però, alcune vittorie hanno un prezzo molto alto, no? Si sente dire spesso, ho vinto nel lavoro, ma ho perso negli affetti. È un'affermazione che alcune volte suona un po' come una sconfitta. Oppure, professore, per vincere bisogna anche saper perdere, inteso come rinunciare a qualcosa. Io credo che sia molto importante. Effettivamente vincere implica delle scelte. Le vere vittorie nascono dalla sofferenza e dal coraggio. Talvolta si vince purtroppo soltanto sacrificando qualcosa di importante per noi. Dobbiamo saperlo, perché ogni vittoria ha un prezzo, niente viene dato gratis e illudersi di vincere senza pagare un prezzo è una vera illusione. 824 0024, diteci anche quindi il prezzo con cui avete pagato la vostra vittoria. E professore, anche nei fumetti, no? Ci sono dei personaggi che vincono sempre e altri che si arrabattano un po'. Topolino, ad esempio, prototipo del campione che non ne sbaglia una, e Paperino invece che non ne azzecca una. Lei a chi si sente più vicino? Ma potremmo anche citare Charlie Brown, ad esempio, no? Guardi, io direi che i fumetti sono fumetti. La vita implica il fatto che noi siamo un po' Topolino e un po' Paperino insieme tutte le volte. Quindi un po' vinciamo, un po' perdiamo. Direi che forse Topolino come vantaggio è quello di credere in se stesso, e in quel senso mi riconosco un po' di più in Topolino. Allora, arrivano già alcuni messaggi, ve ne leggo alcuni. A 50 anni, dopo aver cresciuto due magnifici figli, mi sono finalmente laureata in medicina. Quel giorno mi sono sentita come una vera campionessa, avevo vinto tutto. Professor Perna, parlavamo dei sogni e la vittoria è anche realizzare un sogno magari tenuto a lungo nel cassetto. Ma direi che la vittoria è soprattutto avere la forza di seguire i nostri sogni, perché ricordiamoci che raggiungerli poi dipende da tanti fattori, indipendenti anche da noi. però il scegliere di andarli dietro dipende da noi. Quindi bisogna avere tanto coraggio, bisogna accettare il rischio della sconfitta, solo così avremo la possibilità di raggiungere gli obiettivi ed essere poi felici. Alfio da Roma ci scrive: prima volevo sempre essere primo e non mi accorgevo che ero ultimo nelle cose che più contano, l'amicizia e l'amore. Aver superato una grande malattia mi ha permesso di rimettere tutto nella giusta prospettiva. Professor Perna. Questo è molto importante, perché la vittoria non è il raggiungere qualcosa che vogliono gli altri o che vuole la società, ma è raggiungere qualcosa che vogliamo noi. Prima dobbiamo scoprirlo, e talvolta proprio momenti di grande malattia o di grande difficoltà ci permettono di riflettere sui nostri veri obiettivi e quindi a quel punto lì avere la strada tracciata per la vera vittoria, che può ritrovare quello che noi desideriamo. Allora, come possiamo aiutare i nostri ascoltatori ad orientarsi e quindi a raccontarci un po' la loro storia? Magari lei ci può dare anche una mano. Abbiamo dedicato proprio un'intera puntata all'importanza della decisione, che ha sicuramente a che fare poi con la vittoria, perché dobbiamo già scegliere, no? Se seguire una passione, un sogno, se rinunciare a qualcosa. Nella vittoria ci sono comunque delle scelte. Prima cosa, che dobbiamo partire dall'essere molto onesti con noi stessi e consapevole sia dei difetti, limiti che abbiamo, sia di quelli che sono gli obiettivi personali. Quindi non nascondere la testa sotto la sabbia, non partire a sprombattuto per raggiungere degli obiettivi che vogliono gli altri. Quindi bisogna ritrovare noi stessi, quindi bisogna talvolta fermarsi, guardarsi dentro per scoprire proprio qual è l'obiettivo vero nostro. Questo è il primo passo fondamentale. Allora, se avete provato l'ebbrezza della vittoria, se state ancora lavorando per raggiungerla, se avete gettato la spugna, capita, chiamateci 824 0024, valuteremo ogni caso per darvi le coordinate per raggiungere il vostro obiettivo o magari per scoprire quello che avete nel cuore. Una mela al giorno. Il vostro medico curante vi ha prescritto una terapia antibiotica? Siate ligi, mi raccomando, nel rispettare i tempi di somministrazione. Ma volevo farmi anche un'altra domanda. State prendendo contemporaneamente dei fermenti lattici? Se lo state facendo, continuate così, aiutano. Ed è qui a confermarlo, con le ricerche alla mano, la dottoressa Rita Banzi, farmacista, ricercatrice presso il Centro Cochrane Italiano all'Istituto Mario Negri di Milano. Buongiorno, dottoressa Banzi. Sì, sorridevo per la rima. Buongiorno. Ah, sì, infatti. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Sì, effettivamente è vero, i fermenti lattici, quelli che la scienza chiama spesso probiotici, sono effettivamente utili ed efficaci in diverse situazioni. In un certo senso potremmo definirli dei microorganismi buoni, quindi in grado di ristabilire la flora batterica normale del nostro organismo quando per problemi di malattie oppure di terapie con antibiotici questa viene danneggiata. Effettivamente le persone che utilizzano questi farmaci sono sempre di più, sia sotto il consiglio del medico, ma anche perché sono farmaci cosiddetti da banco, quindi possono essere acquistati in farmacia senza ricetta. E i ricercatori della Cochrane hanno lavorato molto su questo argomento e, mettendo insieme i risultati di molti studi clinici condotti sui fermenti lattici in tutto il mondo, confermano appunto la loro efficacia in molte situazioni. Facciamo qualche esempio, dottoressa Banzi. Sì, certo. Beh, l'esempio più comune potrebbe essere quello delle diarree, che sono disturbi molto frequenti e a volte appunto molto fastidiosi. In questo caso l'utilizzo dei fermenti lattici è sicuramente molto importante, migliorano i sintomi e soprattutto lo fanno in maniera più veloce. E un esempio molto, molto classico anche per il periodo estivo e quindi le vacanze che si avvicinano è quella della cosiddetta diarrea del viaggiatore. O maledizione di Montezuma, vero? Anche maledizione di Montezuma, certo, perché appunto durante le vacanze è proprio una sfortuna che non vorremmo avere, però è purtroppo molto comune, soprattutto quando decidiamo di passare appunto le vacanze in alcuni paesi in cui le condizioni igienico-sanitarie sono un po' più precarie e quindi dove è facile incappare appunto in queste infezioni intestinali che hanno come principale manifestazione delle forti diarree. In questo caso la terapia è a base di antibiotici, ovviamente, ma associare all'antibiotico il fermento lattico ancora una volta ne potenzia l'efficacia. Dottoressa Banzi, però in alcuni casi i fermenti lattici non solo ci mettono al riparo, ad esempio, dagli effetti collaterali degli antibiotici, ma ne potenziano addirittura l'efficacia. Insomma, la cura funziona meglio, come dimostra una recentissima revisione Cochrane. Sì, è proprio di questi giorni una revisione Cochrane che ha raccolto dati su oltre 4.000 pazienti, quindi uno studio molto grande, che va a studiare l'effetto appunto dei fermenti lattici in quelle che sono le cosiddette infezioni delle zone femminili, la vaginosi ad esempio. Queste infezioni sono piuttosto frequenti e aumenta la loro frequenza nel periodo estivo. Questo per una serie di motivi e di comportamenti che tendiamo ad avere durante l'estate e ovviamente ad esempio per a causa del clima caldo, dell'utilizzo di costumi da bagno, quindi indumenti di tipo sintetico e così via, e anche in un certo modo perché cambiano le abitudini sessuali. Quindi questo disturbo tipicamente femminile appunto aumenta durante l'estate. I dati dei ricercatori Cochrane hanno dimostrato che i fermenti lattici in alcuni casi addirittura sono efficaci come la terapia antibiotica o addirittura di più, e sicuramente se somministrati insieme agli antibiotici stessi ne aumentano e ne potenziano l'attività. Dottoressa Banzi, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Grazie mille, insomma anche in questo piccolo esempio abbiamo visto come i risultati di una buona ricerca scientifica possono aiutarci nell'utilizzo dei farmaci. Assolutamente, noi ci sentiremo prestissimo. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Pronto soccorso. Ciascuno la sua vittoria. Parliamo anche di vittorie piccole, quotidiane. Dobbiamo fare soprattutto attenzione a queste. Ma voi a che cosa puntate? Che difficoltà state incontrando? Facciamoci dare una mano dal professor Perna, che è in linea con noi. Professore, a proposito di vittorie quotidiane, spesso il nemico della nostra vittoria sta proprio dentro di noi. Di solito ci fa più paura anche dell'avversario più forte, e questo avversario sono i nostri difetti, i nostri limiti, le cose che non amiamo fare perché non ci vengono bene. Questa io credo che sia proprio la prima vittoria, perché se non si vince questa, tra virgolette, gara, non c'è miglioramento. Ma tante volte i piccoli successi, le piccole vittorie che noi abbiamo nei confronti di questi rivali non fanno scalpore e noi non ce ne rendiamo conto. Lavoriamo su questo, professore. Hai proprio ragione, direi che tutti gli ascoltatori, anche usando il buon senso, possono comprenderlo. Cioè, noi dobbiamo avere gli occhi veramente aperti per cogliere i risultati positivi che abbiamo. Questo perché soltanto una buona autostima ci permette poi di raggiungere gli altri obiettivi. Quindi noi possiamo raggiungere grandi obiettivi soltanto se siamo capaci quotidianamente di raggiungere i piccoli e vederli. Vederli come? Vederli vuol dire magari alla fine della giornata ripensarci. Quindi in qualche maniera ritrovare quella velocità giusta di pensiero che ci permette di diventare consapevoli. È molto importante perché per avere dei successi piccoli bisogna essere molto attenti e onesti con noi stessi durante la giornata, ma bisogna immagazzinare nella memoria, perché soltanto la memoria di piccole cose positive crea quell'atmosfera di fondo positiva che ci permette poi di lottare per raggiungere grandi obiettivi. Allora, professor Perna, invitiamo i nostri amici da casa. Da quando si sono svegliati ad ora, sono le 11:22, quante piccole vittorie hanno vinto? Magari anche banalmente quella di fare le scale invece che prendere l'ascensore. Hanno vinto in un certo senso la pigrizia. Qualcuno avrà deciso di non fumare quella sigaretta per provare a smettere o a fumarne di meno. O avrà fatto quella telefonata che gli costava fatica. Scriveteci 349-238-6666 o chiamateci 800-24-00-24. Iniziamo dal piccolo, ma andiamo a Bolzano, ci aspetta Gianni, buongiorno. Buongiorno, la mia vittoria odierna è quella di aver telefonato. Bravo Gianni, bravo. E anche mettermi in discussione. Sì. La mia esperienza è quella, io sono titolare di un'azienda. Sì. Che a un certo punto ho voluto fare qualcos'altro, mi sono iscritto alla facoltà di scienze di formazione di Verona, ho fatto due esami, quindi sono passato da un settore tecnico a un settore umano. Mi ha affascinato tantissimo, piaciuto tantissimo. Al secondo esame ho visto un ambiente un po' strano, che a me non è piaciuto come università. C'è una cosa abbastanza fredda, distaccata. L'esame è andato male e gli ho detto va bene, per intanto lascio perdere e arriverà un'altra occasione. Quindi un consiglio volevo averlo da voi, anche se ho già assorbito parecchie cose che state dicendo. Grazie Gianni, intanto complimenti per averci chiamato. Professor Perna, un occhio di riguardo a Gianni, che devo dire è già fatto, cioè iscriversi all'università da grandi è già una vittoria, perché molto probabilmente era un sogno che Gianni aveva nel cassetto, e rimettersi in gioco, quindi rimettersi davanti ai libri, studiare e poi andare di fronte ad un esaminatore non è da poco, no? Ma direi di sì, lui intanto è già un vincitore. Vincitore perché ci ha provato, perché si è messo in gioco, perché è andato dietro un desiderio e un sogno. Quello che però è importante è questo, la tenacia. Allora, se vuoi realizzare il sogno bisogna accettare l'ambiente, che magari è anche l'ambiente sfavorevole, e picchiare duro. Questo perché dopo un po' uno diventa indipendente. Essendo indipendente trova soddisfazione nel solo fatto di aver fatto delle cose, non tanto di chi abbiamo attorno. Questo è importantissimo, perché spesso noi avremo anche il desiderio e il coraggio di fare delle cose, di raggiungere gli obiettivi, di buttarci in qualche impresa importante, ma spesso è l'ambiente esterno che ci frena. L'ambiente può distruggerci, risposta sì, quindi il rischio c'è sempre, ma non possiamo permettergli di fare un passo indietro quando vogliamo fare dei sogni. Quindi il mio invito è riprovarci ancora, perché con questa volontà, questa determinazione e con l'esperienza che ha, sicuramente potrà andare avanti e avere successo. Leonardo invece ci chiama dalla provincia di Firenze. Buongiorno Leonardo, benvenuto. Buongiorno, io a differenza del primo ascoltatore vorrei, o perlomeno ho dei sogni da realizzare, però non riesco ad individuare, diciamo, quello che più mi è consono, ecco. E magari in questo ho, diciamo, giro e poi magari non riesco ad ottenere poi quello che voglio. Certo, quindi non riesce a iniziare, a prendere, esatto, una decisione. Sì, avrei voglia di iniziare, di fare qualcosa solo per me stesso, perché io sono un dipendente. Però ho delle idee, però magari poi lungo la strada le abbandono e vado in altre idee che poi magari non mi portano a niente. Non riesci a capire qual è in realtà il mio obiettivo primario. Insomma, forse Leonardo, professor Perna, avrebbe bisogno di essere un pochino concreto, di mettere, come si dice, proprio il piede per terra, iniziare il primo passo. Professore, però è difficile, perché quando ci sono tante idee si rischia poi alla fine di rimanere paralizzati. Guarda Nicoletta, mi viene in mente un'altra trasmissione che abbiamo fatto sulle decisioni, sì, con il dottor Cavedini anche lì, e qual è la cosa importante? La cosa importante è talvolta ascoltare lo stomaco. Se noi continuiamo ad andare dietro i pensieri, e devo dire che in un certo senso pensare può far davvero male, perché diventa un pensiero inutile. Allora, la cosa importante quando noi sentiamo qualche cosa è di buttarsi, di affrontarla subito. Poi sarà la realtà a dirci se va bene o va male. Il rischio qual è invece? Quello di intortarci da soli con i pensieri, con i dubbi, con i limiti, e quindi quando una bella idea diventa pesante, appesantita dai pensieri, ecco che cade come forza, e quindi ha bisogno di un'altra. Quindi io consiglierei, la prima buona idea che gli viene in mente, di provare a essere operativo, di buttarsi e di fare, e ascoltare la realtà per decidere se andare avanti o meno. Per avere indipendenza economica, ci scrive Elisa da Roma, e libertà data dai soldi, ho rinunciato al sogno del teatro. Il denaro ci rende schiavi o liberi? Sono perdente o vincente? Professor Perna. Difficile dirlo, però. Importantissima risposta, perché dipende ovviamente dalla situazione. Se io ho tre figli da mantenere, un mutuo, non posso permettermi di perdere il mio lavoro dipendente, per esempio, e cercare un sogno. Però spesso noi pensiamo in maniera sbagliata, perché non è che la televisione sia obbligatorio, l'automobile sia obbligatorio, il telefonino sia obbligatorio. In realtà i nostri bisogni di base sono bisogni minimi. Allora, bisogna capire quanto ne vale la pena di rinunciare a un grande sogno per avere delle cose. Io credo che la cosa più brutta sia arrivare alla fine della propria vita con dei rimpianti, dicendo chissà cosa avrei fatto se. Il mio consiglio è provate a buttarvi sempre, sapendo che vi sono dei limiti, e i limiti sono le persone che amiamo, sono i nostri figli, e quindi le responsabilità che abbiamo preso durante la vita. Però lo spazio spesso c'è, basta rinunciare a tante piccole comodità. Ci scrive Alberto: oggi ho vinto la paura e ho prenotato la visita dal dentista, grazie a voi. Anche questa è una piccola vittoria. Dicevamo che bisogna vincere quotidianamente con qualche nemico che abbiamo dentro, può essere la pigrizia, può essere la paura. Professor Perna, lei poi è un grande esperto di paura, la paura patologica, ma anche quella sottile paura che tante volte ci fa rimanere bloccati. E un'altra ascoltatrice invece, Alba, ci scrive: vinco tutte le volte in cui non rispondo male a mia suocera, mi mordo la lingua. Oggi vogliamo parlare di vittorie, anche di quelle piccoline. Arrivano tantissimi messaggi, professor Perna. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori infatti di raccontarci da quando sono svegli ad ora le piccole vittorie. Allora, Andrea è riuscita a non mettere lo zucchero nel caffè dato che è a dieta. Antonella ci scrive: vincere ogni giorno, andare a lavorare con il sorriso, alzarsi sempre puntuale, insomma rendersi conto delle piccole cose che facciamo può portarci sicuramente alla vittoria. Professor Perna, lei che dice? Insomma, bisogna allenare, è una forma di allenamento. Assolutamente, una delle parole chiave per vincere è essere disciplinati. La disciplina è qualcosa che un po' manca forse in quest'epoca, però è una cosa importante perché permette di essere costanti e persistenti per raggiungere un obiettivo. Se voglio dimagrire, è chiaro che non posso vincere soltanto una volta, ma la vittoria è quella di essere costanti. Se voglio arrivare puntuale al lavoro, devo svegliarmi sempre regolarmente. Se voglio andare in palestra, tenermi in forma, devo andare regolarmente. Quindi le piccole vittorie sono anche quella capacità di essere costanti. Ti dico la cosa importante è questa: quando parliamo di vittorie della paura, di cui abbiamo accennato prima, bisogna stare molto attenti, perché talvolta la vittoria è anche chiedere aiuto. Quindi non sempre possiamo vincere le nostre paure, da nostre soli, ansie, semplicemente da soli. Certo, dobbiamo affrontarle, però quando non ce la facciamo, la vittoria vera è avere l'umiltà di chiedere aiuto a un professionista, a un medico, a uno psichiatra, per cercare di uscirne fuori. Quindi non pretendiamo dagli altri che vincano magari delle malattie o dei disturbi, in quel caso hanno bisogno di aiuto. 824 0024, il tema che andiamo ad affrontare è molto ampio, dalle piccole alle grandi vittorie, e naturalmente bisognerà parlare anche di sconfitte, di fatica. I messaggi al 349 238 6666. Intanto saluto il professor Grieco, che è docente dell'Istituto di Medicina Interna della Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Professore, con lei apriamo una parentesi sulla ricerca, che tra l'altro sempre più spesso riporta risultati che direi a tutti gli effetti possono essere considerate vittorie. Ma veniamo a noi, parliamo di steatosi epatica, meglio conosciuta tra i non addetti ai lavori come fegato grasso. Bene, secondo il vostro studio, i batteri intestinali potrebbero avere un ruolo nello sviluppo di questa condizione. Professore, quindi diciamo che sono forti indiziati. Perché? Diciamo che hanno aperto questo studio, ha aperto uno spiraglio, quantomeno ha fatto vedere la possibilità di un ruolo di quella realtà di apparato, nell'apparato che è la flora batterica intestinale, che va sotto il nome di oggi di microbiota. Sì. E che è una realtà finalizzata al beneficio del paziente, del soggetto, perché porta anche difese immunitarie, responsabili difese. In alcuni casi potrebbe anche far vedere che un eccesso, una modifica nella composizione può essere anche dannosa. E nello specifico la steatosi epatica, che correttamente, come lei ha ricordato, significa eccesso di fegato, di grasso nel fegato, e che oggi vediamo sempre più facilmente diagnosticato per la diffusione di un esame innocuo come l'ecografia epatica, e in questo caso di steatosi epatica in alcuni casi potrebbe essere proprio una modifica della flora batterica intestinale e dell'irritazione che determina sulla parete, a far sì che entrino anche delle tossine che poi vengono frenate da questa grande barriera che poi è il fegato, che ricordiamo è posto a baluardo sul tratto gastrointestinale di ritorno di tutto ciò che noi introduciamo, e quindi il fegato è una grande fucina di elaborazione, di produzione, di energia e di rifiuti. È chiaro che a quel punto, quando si trova, si vede pervenire anche delle tossine, deve frenare, questo freno determina poi anche un'alterazione, quella infiammazione che poi va sotto il nome di steatoepatite, cioè quando insieme al fegato grasso si manifestano i primi segni di irritazione, che sono il movimento delle transaminasi, ed allora diventa un problema più importante. La nostra ricerca ha fatto proprio vedere questo, ha fatto intravedere un possibile ruolo della modifica dei batteri intestinali nella loro composizione e quantità. Professore, allora teneteli d'occhio questi indiziati. Credo proprio che dovremo, ma questo nostro studio, che poi è, devo dire che ci fa piacere che sia stato condotto interamente in Italia dalla ricerca italiana, gruppo italiano di lavoro, ha fatto intravedere questo possibile, avete usato benissimo il termine indiziati. Fatto vedere questo aspetto come un possibile indizio reale che va approfondito e va completato con studi, diciamo così, di secondo livello, però già ci ha permesso di aprire un altro spiraglio. Uno spiraglio. Fare un altro passo avanti, un'altra piccola vittoria, come dice ecco, lei. Ecco, allora professore, aspettiamo un'altra vittoria. Grazie professore per essere stato con noi. Grazie dell'attenzione, saluti a tutti. Grazie, buona giornata. Tante cose. Professor Perna, lei che ha studiato a fondo il cervello maschile e femminile, tra l'altro un ascoltatore mi manda tantissimi messaggi, me li ha mandati in serie per dire che i suoi libri sono bellissimi, eccezionali, noi ne parliamo spesso, chiusa la parentesi, lei ha studiato in uno proprio dei suoi libri cervello maschile e cervello femminile. Allora, sottolineandone proprio le differenze, ma chi è più predisposto alla vittoria? Chi sa meglio reagire anche all'eventuale sconfitta? Maschio o femmine? I maschi, l'uomo è più competitivo e aggressivo, quello lo sappiamo, però sì, la donna è sicuramente più capace di gestire le sconfitte. Quindi, diciamo, per fortuna la natura o il Padre Eterno hanno dato delle, come dire, doti a entrambi i sessi. Da una parte l'uomo è più focalizzato e determinato, questo è importante. Quando l'uomo si aggancia su un obiettivo, non molle, va dritto sul bersaglio. La donna invece riesce a essere molto più ampia nel vedere il mondo, molto più olistica in qualche maniera, e quindi riesce a gestire le sconfitte meglio e imparare meglio dalle sconfitte. Quindi, in un certo senso, la donna impara di più e quindi ha più chance un domani di vincere. L'uomo però ha quella determinazione che talvolta le donne manca. Capisco l'ottimismo e l'autogratificazione, ci scrive Emanuele, ma premiarsi per cose banali, come alzarsi o lavorare, mi sembra un po' prendersi in giro. Professor Perna? Ma è prendersi in giro, è avere la consapevolezza che la vita non è fatta solo di grandi obiettivi, di grandi vittorie, ma anche di piccole cose. Allora, purtroppo noi troppo spesso diamo per scontato le piccole cose quotidiane. Facciamo un esempio, il fatto di essere riuscito a trovare una persona cara, di aver fatto una bella telefonata. Questo non è una vittoria definitiva, ma crea quel terreno, ha una visione ottimistica della vita, che è quella che ci dà il coraggio poi di affrontare grosse situazioni. Quindi è vero, non ci si può limitare a, certo, autogratificarsi, le banalità. Però aiuta un po'. Però aiuta, eh? Certo, e invece certo. Mario da Cagliari ci scrive: tutti i giorni fare 20 km in bici per i miei due bypass, e questa è sicuramente una bella vittoria. E io ho in linea un campione, Igor Cassina, campione olimpico ad Atene 2004. Ciao Igor, grazie per essere con noi. Ciao, buongiorno a tutti. Senti, nello sport, parlando di vittoria, parliamo di sport, bisogna non solo essere bravi, ma occorre essere proprio meglio degli altri, bisogna in sostanza arrivare prima. Ci sono degli ottimi atleti che arrivano spesso sempre secondi. Che cosa fa secondo te la differenza, Igor? Lo chiedo proprio a te, perché secondo me il mondo dello sport ha tanti aspetti in comune con la società di oggi, che diventa sempre più competitiva. Sì, allora, indubbiamente per arrivare ai vertici nello sport non è facile, proprio perché la concorrenza è molto alta, ed è normale che un atleta che pratica uno sport ad alto livello e quindi ne fa la sua vita e quindi la sua più grande passione, è normale, e credo che sia anche giusto, puntare al migliore dei risultati, perché certo, se noi puntiamo al meglio è possibile che qualcosa di buono lo facciamo. Se ci accontentiamo, credo che viene difficile cercare di tirare fuori il meglio delle nostre qualità e delle nostre potenzialità. Ovviamente purtroppo non si riesce sempre a vincere e quindi è anche un insegnamento, credo, per noi stessi e per chi ci circonda, mettersi sempre in gioco, che è la cosa più importante. A volte magari per paura o per altre sfaccettature della vita magari tendiamo magari a nasconderci e a non riprovarci per paure varie. Credo che l'aspetto più importante sia quello di credere in quello che facciamo, mettercela tutta, avere anche un po' di fortuna, perché è un po' quella ci vuole, a volte aiuta, e quindi riprovare nel migliore dei modi. Io ho avuto la fortuna di realizzare il mio sogno con il mio sport, con la medaglia d'oro ad Atene. Alle ultime Olimpiadi a Pechino sono arrivato quarto ad un soffio dalla medaglia, ho commesso un'imperfezione, poteva comunque starci la medaglia, però vabbè, fa parte dello sport e della vita. E ho subito anche una brutta caduta ai recenti campionati europei, dove sono rimasto molto deluso perché avevo il primo punteggio in qualificazione e è stato un mio errore che è partito dalla testa, e sappiamo tutti che un grande campione fa la differenza, perché in quel momento è la testa che lavora al meglio, perché diciamo il fisico si dà per scontato che la preparazione c'è, però quello che fa la differenza è la concentrazione, è un fattore psicologico mentale che fa fare il salto di qualità. Quindi diciamo la delusione a volte rimane, ma bisogna guardare avanti e guardare soprattutto a quello che ci piace fare. La ginnastica per me è veramente la mia vita e la mia passione, quindi è normale che il primo periodo, i primi giorni, il pensiero va sull'errore, quindi sulla delusione legata a un sogno che magari è sfumato, però si guarda avanti. Adesso a breve ai mondiali che ci saranno a ottobre a Londra. Brava, vedo che sei informata, mi fa piacere, e quindi i campionati del mondo sono un'occasione importantissima per un riscatto mio personale e per avere diciamo quella motivazione, Igor, ancora più forte. Guarda, metto già la firma che sarai il primo. Grande, va no, bene. Guarda, lo so, perché tra l'altro portare buona a te è facile perché sei un grande campione, ma sempre più persone che sono venute in trasmissione mi dicono che portiamo buono, quindi Igor, festeggeremo insieme. Va bene, lo firmo già. Grazie, Igor. Cassina. Siamo qui con un appuntamento con Maria dalla provincia di Genova. Maria, buongiorno. Maria? Quattro e Nicoletta. Le faccio questa premessa, che voglio poi fare una domanda, una sintesi. Io ho 65 anni, sì. Un anno fa ancora ho deciso di sposarmi per scelta, facevo una vita molto direi cittadina, mondana, insomma ho viaggiato in tutto il mondo, e ho fatto una scelta totalmente diversa, andare in campagna. Sì. Ho restaurato un immobile, insomma, e mi sono divertita tantissimo e mi diverto tuttora. Il discorso mio però verte su questo, l'autostima, vittorie ne ho avuto tante, come anche tanti insuccessi, però quello che io non, e vorrei che lei facesse una trasmissione su questo, sì. Mio attuale marito sostiene che l'amore è affidarsi completamente all'altra persona. Sì. E io, avendo un controllo abbastanza della mia vita, insomma, questo non mi riesce, questo totale rilassamento, affidarmi completamente a una persona, mi fa paura. Sì. Ora, chiedo proprio questo, autostima ne ho, sono ottimista, ecco, se questo è veramente un problema, perché credo che il problema della vita poi sia proprio questo, il grande amore, questo probabilmente di riuscire a trovare una persona alla quale affidarsi completamente. Allora Maria, questo è un ottimo spunto per una prossima puntata, ma posso chiedere al professor Perna di fare un rapido commento prima di andare da Francesco da Bari. Professor Perna, affidarsi completamente anche... Io direi fidarsi completamente. Affidarsi è un concetto diverso, quindi sicuramente noi dobbiamo affidarci innanzitutto a noi stessi, però bisogna affidarsi dell'altra persona totalmente, quindi direi che è una sottigliezza, però è molto importante, poi ne avremo occasione in un'altra trasmissione, diventa un concetto molto molto importante, perché vuol dire quanto dobbiamo contare sulle nostre forze, le nostre gambe, quanto dobbiamo appoggiarci sugli altri, qual è il livello di dipendenza giusto, quindi è sicuramente qualcosa di molto importante in cui una soluzione unica non esiste, esistono tante soluzioni possibili, ma sicuramente la fiducia è un elemento imprescindibile. E di questo parleremo in una trasmissione. Professor Perna, la invito già, sperando che lei possa venire qua in studio. Intanto vogliamo a Bari perché ci aspetta Francesco. Francesco, buongiorno. Buongiorno, sono in linea. Complimenti per la trasmissione, mi sente? Io la sento bene, Francesco, grazie. Ah, perfetto. C'era un particolare della mia vita. Io ho iniziato parecchie volte dei progetti, anche parecchie, non esageriamo, più volte, dei progetti anche ambiziosi. Sono riuscito quasi sempre o sempre a superare tutte le tappe intermedie. Giunto all'ultimo passo, ho perso interesse per quel progetto, non l'ho più portato a compimento. Ho avuto paura di vincere in un certo senso. Sì. È una cosa che mi lascia abbastanza perplesso, perché dopodiché ho paura di incominciare qualunque progetto. Sì, per non rifare la stessa, ritrovarsi nella stessa situazione. Esattamente. A un passo della vittoria, professor Perna, si cambia, si perde quasi interesse, c'è qualcosa che si rompe. E mi viene in mente il sabato del villaggio, purtroppo la preparazione, l'anticipazione, quindi il desiderio di affrontare una situazione dà una carica molto forte. Quando poi abbiamo vinto, perché di fatto l'ultimo passo è un passo di concretezza, ma la vittoria a quel punto è già raggiunta, uno spesso cala in quella che è la forza e la motivazione e cerca qualcos'altro. Questo purtroppo è l'eterno tentativo di tutti noi di trovare cose nuove, quindi è una lotta continua fra cose sicure e certe da una parte e dall'altra parte invece novità e stimoli eccitanti. Lì bisogna utilizzare la determinazione, perché l'ultimo passo è quasi un qualche cosa che noi dobbiamo imporre a noi stessi per concretizzare quello che è tutto lo sforzo prima. Quindi piuttosto che mollare, facciamo l'ultimo passo, chiudiamo gli occhi e facciamolo, poi dopo possiamo mollare dopo. Professor Perna, io non so se lei sia intonato, non lo so, può darsi di sì e per cui non la invito a cantare con me, ma se la ricorda, bisogna saper perdere, non sempre si può vincere, come vuoi e quando vuoi? Io devo dire che oggi ho vinto, perché in linea con noi abbiamo una persona che io amo molto, è un mito per tutti noi di questa generazione, Shel Shapiro. Ciao Shel. Ciao Nicoletta, buongiorno. Buongiorno professore. Eccolo, senti, direi che questa bellissima è una canzone anche un po' pedagogica, perché in tempi non sospetti voi insegnavate che insomma la vittoria dipende anche da una buona gestione della sconfitta, ma sono andata a leggere diverse tue interviste, tu dicevi, però non bisogna farci troppo l'abitudine. Com'è andata? Guarda, io non sapevo davvero che stavo facendo lezioni di pedagogia quando lo cantavo. Io trovo che, allora, bisogna sapere perdere. Ognuno di noi nella vita perde tutti i giorni in qualche modo, e in altre cose forse vince tutti i giorni. È parte delle condizioni umane, insomma. Allora io trovo che noi che in questo momento viviamo una situazione dove sembra che se uno non è vincente è eliminato dalla corsa alla vita, mi sembra veramente un'assurdità. Quindi in quel senso lì bisogna saper perdere, sì, anticipato i tempi da un punto di vista, ma forse più ideologico, cioè questa cosa del vincere a tutti i costi lo trovo così noioso, poi, perché rende la gente cattiva, rende la gente senza anima anche in qualche modo. Senti Shel, in chiusura, dato che insomma hai fatto scuola e hai fatto adesso, so che sei sempre super impegnato, teatro, concerti, il primo appuntamento, perché noi oggi abbiamo detto facciamo piccoli passi, quindi primo piccolo passo per venire da te, qual è il tuo? Guarda, ce ne sono due o tre, due o tre concerti, questo concerto acustico che sto facendo in giro, mi pare a Bra lunedì a Bra, però anche perché io sono impegnato nelle prove di Shylock, il mercante di Venezia. Con Monio Vadia, vero? Con Monio Vadia, Teatro Starle di Bologna, dove io faccio Shylock e Moni fa il mio regista. È una cosa un po' particolare. Vedi che sempre mettersi in gioco. Io devo chiudere, ma ho letto che tu volevi fare il medico, il biologo, poi il medico, poi hai così ceduto alla passione per la musica, e meno male. Salutiamo Shel Shapiro, grazie Shel per essere stato con noi. Grazie Nicoletta, grazie a voi tutti. Grazie, un abbraccio. Professor Perna, devo salutarla, ma noi abbiamo già una puntata in programma che ci ha suggerito Maria, l'aspetto. Benissimo, un saluto a tutti voi. Grazie a voi che ci avete seguito, appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Buona giornata.